Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Imprenditoria giovanile e innovazione sono al centro di questa puntata. Oggi non cambiate frequenza perché vi promettiamo una full immersion nel mondo, probabilmente ancora sconosciuto ai più, delle imprese innovative. Imprese giovani, fatte da giovani, che però nel nostro paese ancora stentano a trovare risorse per partire. Il protagonista della puntata di oggi, dopo vari tentativi in Italia, ha dovuto fare le valigie e partire, destinazione Dublino. Dietro ha lasciato un paese che rischia di mancare l'appuntamento con il futuro. Credo che l'Italia attualmente sia fuori dai circuiti internazionali dei talenti e fuori anche dalle rotte degli investitori internazionali e, dal mio punto di vista, c'è ancora paura di sperimentare e di cambiare dei paradigmi ingessati. Nicola Farronato, 34 anni, è un giovane imprenditore innovativo che ha scelto l'Irlanda per avviare la propria attività. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. La stampa estera torna ad occuparsi della fuga dei talenti. Lo ha fatto questo mese il Wall Street Journal in un articolo dal titolo Italy Takes Steps to Address Flight of Talented Youth, dedicato alla legge contro esodo per il rientro dei talenti, legge che ha iniziato un roadshow di presentazione mondiale, prima tappa a Bruxelles, poi Londra e Stati Uniti. 4 miliardi di euro, 200 milioni persi ogni anno dal 1989, solo calcolando il valore economico dei brevetti depositati dai 20 principali scienziati italiani emigrati. Del costo economico della fuga dei cervelli si è recentemente discusso a Cernobbio nell'ambito di un seminario di Aspen Institute Italia con una sessantina di espatriati di alto profilo. La questione sociale deve essere vista innanzitutto come drammatica carenza di prospettive di occupazione per una parte rilevante dei giovani, lo ha sottolineato il capo dello Stato Giorgio Napolitano nel suo intervento alla Camera in occasione della festa per i 150 anni dell'Unità. Fra i giovani italiani che non studiano né lavorano prevalgono le donne. Si tratta di 1.153.000 nella classe di età under 29, lo afferma l'Istat. E a conferma della difficile situazione dei giovani anche i dati del fisco. Circa 200.000 contribuenti under 25 sono scomparsi nel 2010 per l'erario. Buone notizie invece sul fronte occupazionale. Nel primo trimestre 2011 le piccole e medie imprese dell'industria e dei servizi hanno previsto l'assunzione di quasi 99.000 lavoratori ai titoli di studio più elevati, oltre la metà delle opportunità. Seconda edizione il 13 e 14 maggio a Milano per la Brain Calling Fair, la fiera per favorire l'incontro tra le idee dei giovani e le imprese ed evitare la fuga dei talenti. Simone Crolla, consigliere delegato dell'American Chamber of Commerce, spiega com'è andata l'edizione 2010. Abbiamo avuto più di 1.000 visitatori durante le due giornate, abbiamo ricevuto ben 350 progetti e le aziende hanno implementato alcuni di questi progetti, quindi qualcuno ce l'ha fatta. Effettivamente abbiamo garantito delle opportunità concrete per i nostri talenti. Tutte le info al sito braincallingfair.it, il 6 maggio la scadenza per registrare online i propri progetti. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero, oggi vi segnaliamo. C'è tempo fino al 14 aprile per registrarsi alla nuova campagna di assunzioni nelle istituzioni europee per la carriera di amministratori. Bruxelles cerca i migliori talenti laureandi o neolaureati, info su eu-careers.eu. Avvocati Senza Frontiere ha aperto varie posizioni, tra cui quella di vice direttore per la sede di Bruxelles, scadenza per i CV domani, info su asf.be. E infine un professore di economia alla Dublin City University Business School in Irlanda, scadenza per i CV 1 aprile, info su dcu.ie. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta per la prima volta in Irlanda. Come vedremo, l'ex tigre celtica graffia ancora, soprattutto per quanto riguarda le opportunità offerte a giovani imprenditori innovativi. Nome: Nicola. Cognome: Farronato. Età: 34. Città di origine: Bassano del Grappa. Studi: International Business. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2010. Per andare dove? Irlanda. Perché? A fare startup digitale. Quale lavoro svolgi attualmente? Imprenditore CEO di una startup. Dove? A Dublino. Tornerai? Per ora no, spero di estendere in futuro il business anche in Italia. Beautiful day, YouTube, per introdurre la storia di Nicola Farronato, una storia di nuova imprenditoria che il nostro paese non ha saputo o non ha voluto valorizzare. In Italia molti non capivano la mia idea di business, quei pochi che la intuivano non sapevano come fare, più mi guardavo attorno e più mi sentivo isolato. Le distanze si riducevano grazie alla comunicazione remota con qualche amico in lontani campi verdi dell'innovazione. Scrivi un po' deluso Nicola, giovanitalenti@radio24.it. Certo che fate davvero paura voi creativi, parole e immobilità. Riassumi bene ora dall'Irlanda il desolante quadro italiano. Questo, ti chiedo, non è un paese per giovani innovativi? È troppo conservatore, forse? Continuo a vedere l'Italia come un paese di creativi, innovatori e visionari. Lo si respira ad ogni incontro in ogni metropoli internazionale. Continuo a vedere anche dei grandi punti di debolezza: la capacità di fare sistema, la capacità di collaborare, la capacità di abbracciare modalità organizzative che sono proprie dell'innovazione aperta. I giovani sono attratti da opportunità globali e, per quanto riguarda soprattutto modelli di business innovativi, l'Italia sembra essere ancora un paese conservatore. Partiamo dai tuoi studi. Ti iscrivi alla facoltà di economia a Ca' Foscari, Venezia, quasi per sbaglio, è vero? Sì, è vero. Venivo da una formazione tecnico-commerciale, mi sono approcciato al mondo universitario senza avere una chiara idea, forse anche proveniente da un ambiente locale, quindi da una mentalità abbastanza pragmatica, studiare per avere un posto sicuro quasi. L'esperienza universitaria ti impone un duro compromesso tra studio e lavoro, anche perché tu già lavoravi. Come hai ottenuto il primo impiego e perché affermi di esserti sentito all'inizio la persona sbagliata nel posto sbagliato? Ancora terminati gli studi universitari, casualmente un giorno a margine di una partita di calcetto sono stato invitato a fare un colloquio. Questo colloquio era per una sostituzione, mi sono presentato fresco di teoria ed è stato abbastanza alto il muro da affrontare. Per i primi mesi mi sono chiesto cosa stesse succedendo, vista la dinamicità e la velocità di quei ritmi rispetto ai ritmi che da un punto di vista teorico venivano approcciati. Quasi un disallineamento delle aspettative tra la capacità di dare mia e quello che mi veniva richiesto. Nel 99 ti laurei, tra l'altro fai anche un'esperienza di stage alla Camera di Commercio Italiana a Londra. E che bilancio dai però un po' dell'esperienza universitaria nel suo complesso? L'esperienza universitaria direi che mi ha dato una media preparazione. Se guardo indietro adesso, con il senno di poi, la trovo abbastanza disallineata rispetto ai modelli nord europei e americani. Il tuo percorso poi in azienda si fa un po' particolare, perché parte da una delusione, paradossalmente, legata al marketing. Tu volevi fare marketing, però non ti volevano valorizzare in quella posizione. Eri forse troppo giovane o c'erano altri motivi? Un giorno ho proposto al mio vicepresidente di aprire la funzione marketing in azienda. Parlare di marketing in un regime di old economy e soprattutto fuori da... Old economy, interessante. Quello che probabilmente era l'epicentro del marketing in Italia, cioè la piazza milanese, significava sostanzialmente riparlare di vendite, abbastanza fuori da schemi che abbiamo visto recentemente come link targetizzati di Google. Mi piace pensare ad una definizione di marketing, cioè il fatto che il marketing parta dalle radici dell'ascolto, da cui ogni comunicazione che non voglia essere unilaterale nasce. Un giorno però arriva anche la tua occasione, il sogno di divenire manager e dare il via a una carriera in giro per il mondo prende corpo un venerdì. Il lunedì ti comunicano saresti partito per il Giappone. Ora tu hai 34 anni e nei successivi 10 avresti cambiato ben 4 datori di lavoro. In quali settori e soprattutto sempre in Italia? Sempre in Italia sì, settori molto legati al manifatturiero, quindi molto legati ancora una volta ad un modo di fare industria, diciamo stile old economy, prima di buttarmi più a capofitto verso l'innovazione radicale e l'imprenditoria innovativa. Dalla old alla new economy, 200 missioni commerciali all'estero in 10 anni e tra le tue esperienze anche un'esperienza imprenditoriale fallita in California del Sud. Quello che ti chiedo però è vero che in America un fallimento non è poi la fine del mondo? In Silicon Valley dicono che un imprenditore di successo ha mediamente 7 fallimenti, piccoli o grandi, alle spalle. Nel mio caso personale mi sono trovato nel 2004 nel sud della California a proporre un progetto ancora una volta di old economy, non sapendo che invece tutto quello che stava succedendo più a nord, quindi nell'area di San Francisco, mi avrebbe poi ritoccato a distanza di qualche anno. Tra il 2005 e il 2010 avvii una serie di progetti e collaborazioni a livello internazionale al ritmo di una all'anno, tra poco ce ne racconti. Prima però spieghiamo perché cominci a guardare in questa direzione. Ho sentito l'esigenza di evadere dal sistema piatto che mi circondava all'epoca e che mi metteva a fianco di colleghi che lavoravano solo per lo stipendio. Uno spreco di risorse, scrivi a giovanitalenti@radio24.it. Allora, Nicola, cosa c'è che non va in Italia? Perché i giovani soprattutto sono così demotivati? I giovani sono demotivati perché, a mio avviso, non trovano sufficienti modelli positivi nelle loro vicinanze e sono costretti a guardarli altrove. Quello che probabilmente è sorpassato è il lavorare per lo stipendio, è il lavorare in maniera poco incentivante e lavorare soprattutto con tetti. Perché non riuscire a motivare e ad incentivare le persone al di là del mero significato economico? Quali sono i progetti che metti in piedi tra il 2005 e il 2010 solo coi nomi? I progetti progetti sono Smile at Work, Back to Africa, Innovation, Lifestyle Entrepreneur, l'ultimo nato, un giornale online dedicato agli imprenditori innovativi che partono dal Veneto. Torniamo a Smile at Work, perché poi sarà il progetto che tu porterai in qualche modo in Irlanda. Allora, spiegaci qual è l'idea alla base. Smile at Work nasce dal fatto di voler aiutare virtualmente, quindi con una piattaforma online, piccole e medie imprese a fare innovazioni in maniera più sistematica e più organizzata. Riceve nel 2006 questo progetto un premio europeo come progetto tra i più interessanti. Tra l'altro finisce anche in una task force ministeriale con l'allora governo Prodi, vero? Sì, è vero. Era il 2007. Questa task force doveva sviluppare un format interattivo TV cittadino per avvicinare appunto l'utenza all'innovazione. Poi cade il governo e si blocca tutto. L'Italia è un paese dove si può ancora progettare qualcosa, oppure ogni cambio di esecutivo si bloccano i meccanismi? Quello che sto vedendo è un collo di bottiglia abbastanza importante, una difficoltà a far emergere, filtrare, dare valore a tutti questi giovani, a tutti questi progetti innovativi che hanno sicuramente del potenziale e andrebbero aiutati maggiormente probabilmente a decollare. Dopo circa 12 mesi di travaglio era ora di decidere dove piantare il seme. Ho considerato varie opzioni, ma all'Italia non ho mai seriamente pensato. Scrivi a giovanitalenti@radio24.it. Che futuro ha un paese che fa letteralmente fuggire le sue menti più creative? Il futuro è quello di dover lavorare per recuperare questo divario che si è creato. Ci sono tantissime opportunità, c'è tantissimo potenziale da rilasciare, manca un'infrastruttura per poter supportare tutto questo movimento, che è in particolar modo il movimento startup. Nel 2010 tu sposti il tuo baricentro verso l'Irlanda, paese che, ricordiamo, sta attraversando una devastante crisi economica, eppure come riesce rispetto a noi a dare più incentivi a imprenditori giovani e innovativi come te? Credo che l'Irlanda stia dimostrando di avere un importante sistema di supporto per idee innovative. È un sistema paese con un'infrastruttura amministrativa snella, c'è un'importante comunità digitale e, da non dimenticare, è un ponte tra i mercati del Nord Europa e gli Stati Uniti. Dove hai ricevuto finanziamenti? Come? Semplicemente partecipando ad un concorso per nuove idee imprenditoriali. Siamo stati coinvolti in una delle piattaforme imprenditoriali irlandesi che ci sta permettendo di portare la nostra idea ad uno sviluppo tale per cui sia vendibile e spendibile nel mercato. La tua azienda si chiama Bismarck e cosa, diciamo, tra virgolette, produci? Bismarck è un servizio marketing innovativo basato sul digitale. Vogliamo proporre qualcosa di nuovo partendo dalla persona, partendo dalla sua esperienza online e dalla sua capacità di generare valore. Come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va, cosa cambieresti e come? Credo che l'Italia attualmente sia fuori dai circuiti internazionali dei talenti e fuori anche dalle rotte degli investitori internazionali e, dal mio punto di vista, c'è ancora paura di sperimentare e di cambiare dei paradigmi ingessati. Bisogna collegare vecchi e nuovi imprenditori, bisogna mappare i nuovi imprenditori e credo che bisogni rappresentare le nuove esigenze che emergono da questa comunità nelle opportune sedi. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Nicola Farronato, 34enne imprenditore della conoscenza. Nicola, una laurea in economia alle spalle, si è fatto le ossa a livello commerciale nel Nord-Est, collezionando nella prima decade del millennio ben 4 impieghi, 200 missioni all'estero, 6 mesi sabbatici tra Brasile e Russia e persino un progetto imprenditoriale in California. A partire dal 2005 ha dato il via a progetti legati all'innovazione, il principale dei quali Smile at Work, premiato anche a livello europeo, si è successivamente trasformato in Bismarck, progetto innovativo che ha messo le sue radici in Irlanda, non avendo trovato terreno fertile a noi in Italia. Ci raggiunge ora in linea Andrea Bettini, blogger ed editor di LSC, Lifestyle Entrepreneur Magazine dedicato agli imprenditori innovativi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, Sergio. Andrea, tu condividi con Nicola la laurea in economia, tra l'altro la tua tesi era sperimentale e riguardava l'interazione tra radio e web. Un pioniere, potremmo dire. Poi cosa accade, lavorativamente parlando? Continuo questa mia strada, ho la fortuna di incontrare una web agency molto dinamica di Verona che mi permette di lavorare per diversi clienti a livello nazionale, questo fino al 2004, poi decido di cambiare fronte di lavoro, quindi da un'agenzia passo a un'azienda e continuo a lavorare nell'ambito della comunicazione legata al web. Andrea, che idea ti sei fatto del mondo lavorativo web in Italia? Dà spazio ai giovani, soprattutto è pronto a raccoglierne gli spunti, a responsabilizzarli e farli crescere anche? Quando io nel 98 c'era molta impreparazione, mi trovavo a discutere di progetti di comunicazione online o con responsabili marketing legati però a una visione tradizionale del marketing o con responsabili di sistemi informativi, quindi che mancava una visione d'insieme strategica dei progetti. Per quanto riguarda i giovani, io ho un'esperienza molto positiva per quanto riguarda le persone operative che ho trovato all'interno delle diverse aziende, che purtroppo però venivano soffocate da dirigenti soffocate. Non più giovani. Attenzione, diciamo. Soffocate, questa è una bella definizione. Quando si dice dare spazio alla creatività, al talento, in Italia non siamo molto abituati, vero? Purtroppo no, questo no, è un grosso limite. Tu poi abbandoni di fatto quella vita professionale precedente e diventi online editor con il tuo blog Il Betta On Air e contemporaneamente pubblichi il progetto Mecenate d'Anime. Parlaci di questa svolta e soprattutto di quanto sia stato facile o difficile affrontarla. Allora, una svolta naturale, necessaria, un calo di motivazioni, quello che stavo facendo, e una delle mie competenze che stavo seguendo nel mio lavoro era quella di scrivere i contenuti per il web, e vedevo che questa cosa doveva avere sempre un peso maggiore. Quindi faccio una scelta di rinunciare a un posto di lavoro fisso. Un pazzo in Italia, no? Un pazzo praticamente. Un pazzo soprattutto perché parliamo di un anno e mezzo fa, quindi in piena crisi economica. Però sentivo che era necessario farlo e a distanza quasi di 2 anni sono contento di questa scelta. Ecco, il nuovo turning point nella tua vita si chiama Lifestyle Entrepreneur e qui abbiamo anche il Trade Union con Nicola Farronato. Lo fondate voi ed è un magazine che parla di imprenditori innovativi, quasi sempre sono giovani. Qui arriva la domanda fondamentale, c'è spazio per loro in Italia? Purtroppo no, ti faccio un esempio concreto. Uno degli ultimi imprenditori che abbiamo incontrato anche con Nicola, era una coppia di giovani ragazzi molto in gamba, avevano poco più di 20 anni, con delle idee, con dei progetti molto validi, però loro stesso ammettevano le loro difficoltà di entrare nell'azienda e di proporre le proprie idee perché venivano visti come dei ragazzi troppo giovani, quindi non si dava importanza al contenuto delle loro idee, ma bensì a un dato anagrafico. Pazzesco. Andrea, tu hai tanti progetti in cantiere, tra cui anche un format radiofonico, pensi di restare in Italia per avviarli? Io ho dei grossi legami affettivi che mi legano a questo paese. Credo e sono fiducioso che ci possa essere una svolta in positivo, però non nascondo che potrei lasciare una porta aperta magari per fare un progetto itinerante per l'Europa, chissà. In bocca al lupo, Andrea. Sì. Domanda di rito per Nicola Farronato. Quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie d'uscita, a un espatrio? Espatriare, specie se per inseguire un sogno, non è una via d'uscita. Non è né una fuga da nessuno, né un addio. L'importante è farlo dalla porta principale e che sia una scelta giusta per un motivo giusto. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi apriamo, come ogni ultimo sabato del mese, la consueta finestra sulle sezioni locali di Italians Online, la più grande comunità virtuale e non di espatriati italiani. Tappa in Olanda, dove c'è Giovanna Franceschini, co-amministratrice di YOL Rotterdam. Gli iscritti sono parecchi, attivi in realtà posso dirti un 20-25 persone. Siamo una fascia d'età tra i 20 e i 40. E ci preoccupiamo di leggere libri insieme, guardare film insieme ed eventi per conoscere l'Olanda. La fascia d'età, l'hai detto tu, è molto giovane. Possiamo parlare di un'immigrazione di professionisti che dall'Italia va verso l'Olanda, in particolare a Rotterdam? Sì, decisamente, anche perché tutti gli iscritti della sezione sono laureati, ti parlo di un 90%, 95%, sono persone laureate, quindi tanti professionisti, e ti devo dire che mentre all'inizio avevo a che fare con tante persone che si erano spostate per amore, nell'ultimo periodo invece tante persone che si sono spostate per cercare un lavoro migliore o trasferite dalla propria azienda, chiaramente con dei vantaggi economici non indifferenti, quindi mi sembra che siano un po' cambiati negli ultimi anni i tipi di frequentatori degli eventi YOL della sezione di Rotterdam. Quando dici ultimo periodo, di quanti anni parliamo? Parlo degli ultimi 2-3 anni. E che tipo di lavori vengono a fare questi giovani a Rotterdam? Dall'ingegnere all'analista contabile, all'architetto, vendite, tanti customer care, ma non call center, quindi anche qui una categoria un po' più elevata, quasi tutti laureati comunque. Possiamo parlare di una, tra virgolette, fuga dall'Italia? Per la maggior parte si tratta di una fuga dall'Italia. Capita spesso che magari persone, tra virgolette, costrette a venire a Rotterdam per amore pochi o comunque per lavoro, poi comunque riconoscono qua una realtà molto più positiva, molto più interessante e stimolante di quella che hanno lasciato a casa. In che termini? Le prospettive di carriera sono comunque qui decuplicate rispetto all'Italia. Una cosa dell'Olanda è il fatto che anche senza avere un contratto fisso comunque puoi da solo comprarti una casa. Nel momento in cui il mutuo non funziona, c'è qualcosa, tu non riesci a pagarlo. Comunque la casa stessa è garanzia, perciò non c'è bisogno di ipoteche esterne. Per chiudere le attività di YOL Rotterdam, cosa organizzate in particolare? Ci sono 2 eventi fissi